Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che il programma oggi finirà alle 18, avremo infatti lo speciale organizzato dalla redazione per capire e aggiornarvi sul disastro che sta capitando a Genova. Come ricordavano i nostri GR, sono già purtroppo 6 le vittime, di cui 3 bambini. L'altra grossa notizia del giorno riguarda invece l'economia e la finanza, e mi riferisco al vertice di Cannes che si è concluso con il giallo delle dichiarazioni di Berlusconi, giallo che si è sviluppato nelle ultime ore. Perché? Berlusconi in conferenza stampa ha detto: il Fondo Monetario Internazionale ci aveva offerto dei fondi che noi abbiamo rifiutato. Poco dopo però è arrivata la smentita del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha detto: il Fondo Monetario non ha offerto all'Italia dei fondi poiché il paese non ha bisogno di strumenti come le linee di credito precauzionali. E il problema dell'Italia, ha continuato a quel punto la Lagarde, è la mancanza di credibilità, che è una frase pesantissima, perché insomma la credibilità per un paese e per un governo, voi mi insegnate che tutto. E questa forse è stato uno scivolone, nel senso che non ci voleva una smentita, ha appunto creato una smentita del Fondo Monetario e tra l'altro ha alzato la palla alla Lagarde per dare un giudizio molto pesante sul nostro paese. Come va la borsa? La borsa non va bene, ma con quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, meno 3% in questo momento, meno 2,30 a Parigi, meno 2,60 a Francoforte, meno 0,47 a Londra, che essendo fuori dall'euro continua a risentire molto molto di meno dell'attacco ai debiti sovrani. L'America perde l'1,26%. L'altro fronte riguarda CDS, o meglio credit default swaps, e soprattutto lo spread. Lo spread purtroppo è tornato a crescere, diciamo già dopo il vertice, è arrivato a 440 punti e poi si è spinto a 450 e poi un nuovo record a 460 punti, 62 punti. È purtroppo un nuovo record storico e lo ha registrato alle 16. Lo spread, lo ricordo sempre, è la differenza, o meglio, tra quanto costa a noi trovare finanziatori per il nostro debito e quanto costa la Germania. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sulla frase di Berlusconi, sul fatto che l'Italia sia un paese ricco in cui i ristoranti sono pieni, non si trovano posti sulle linee aeree. Devo dire che in questo modo interpreta anche molti dei messaggi, alcuni dei messaggi che arrivano anche a questo programma. Abbiamo chiarito agli ascoltatori che quando un paese si impoverisce, per fortuna non è che si impoverisca che praticamente tu non riesci più ad avere la benzina per la macchina, però i dati, mi dispiace contraddire il Presidente del Consiglio, ma i dati che vengono forniti dall'Istat, non da soggetti di parte, sono inequivocabili. Perdita del potere d'acquisto Istat e Banca d'Italia, perdita del potere d'acquisto in 10 anni dell'8% netta, risparmio ai minimi, difficoltà sui consumi. Noi abbiamo intervistato in questi mesi i numeri uno di tutte le catene, vuoi dell'alimentare, vuoi dell'abbigliamento, e l'analisi è sempre stata la stessa: che si trattasse di Coin o di Carrefour, insomma l'analisi è i consumi sono al palo, sono stagnanti, si riducono alcuni consumi. Questo non vuol dire appunto che però i ristoranti siano vuoti, c'è sempre una parte della popolazione che vive con agio, si sta impoverendo una fascia media, ma insomma forse anche in questo caso, con l'aria che tira, la dichiarazione dei ristoranti sempre pieni forse è un po' controproducente. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, avremo tutta un'ampissima pagina sul vertice di Cannes, sulle reazioni italiane e sulla conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti. Rapidamente le altre notizie in breve. La borsa. borsa intanto di nuovo molto male, Unicredit meno 7% a 77 centesimi di euro e anche Intesa San Paolo perde il 5,1 a 1,12 euro. Ansaldo perde il 7,80% a 7 euro per azione, la Popolare di Milano perde il 6,33%, Fiat il 5,5%, Finmeccanica il 5,40%, l'Automatica il 5% come il Monte dei Paschi. Il positivo c'è la Popolare Emilia Romagna più 3% e Buzzi Unicem più 1%. L'Euribor a 3 mesi, quello che serve come riferimento per chi deve fare un mutuo, è calato, è sceso all'1,48% dopo il taglio operato ieri da Mario Draghi nella sua prima iniziativa da quando è presidente della Banca Centrale Europea. Buono il dato americano sui posti di lavoro, creati 80.000 posti di lavoro nel mese di ottobre, la disoccupazione in America scende così al 9%. La Banca Centrale Europea, notizia di poco fa, pochi minuti fa, sta comprando di nuovo titoli italiani. Vediamo se questo avrà qualche effetto sullo spread, che ripeto è a 462 punti, un nuovo record superiore anche a quello del martedì nero. L'euro non vi ho dato, è 1,37,60, non vi ho neanche dato oro e petrolio, oro a 1757 dollari in Asia, quindi il prezzo più alto toccato è questo, quindi 1757 dollari l'oncia, il petrolio a 94,27 dollari. Sul petrolio segnaliamo l'iniziativa del sottosegretario, ve la faremo ascoltare dopo, del sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, a mio avviso, lo dico senza nessun problema, uno dei più preparati sottosegretari anche all'interno del governo, membri di questo governo, soprattutto sui temi dell'energia. Ebbene, Stefano Saglia ha detto che lunedì verranno inviate alle associazioni dei gestori di carburante, verrà inviato un documento con una dichiarazione di impegno da parte del ministro che soddisfi le loro richieste relative in particolare al bonus fiscale. Parleremo di benzina perché è un nuovo record, come già ricordavamo ieri, c'è anche l'accisa per l'alluvione alle Cinque Terre, chiaramente nello Spezzino. Prima di passare al vertice di Cannes, che ripeto è un'ampia pagina sia il fronte europeo che il fronte italiano, devo tornare, mi rendo conto che con l'alluvione di Genova, la pioggia, il brutto tempo, il venerdì uno è stanco, però qui continuiamo a dover raccontare anche il paese che tira la cinghia, che ha difficoltà, le imprese che non trovano finanziamenti in banca perché le banche non glieli danno, e poi un paese che invece è un altro, vive su Saturno, ha tutto un altro tipo di atteggiamento. Eh sì, perché nei consigli regionali vale tutto, cioè non esiste un'uniformità in quello che è il gettone di presenza, i costi per abitante dei vari consigli regionali. Pensate che in Puglia si spendono 10 euro ad abitante, anche in Emilia Romagna, in Lombardia e in Toscana. In Basilicata, Sicilia e Calabria, qua poi è difficile non fare delle distinzioni regionali, Vabbè, Basilicata, Sicilia e Calabria siamo a 35, tra i 35 e i 40 euro per abitante. Poi c'è il record della Sardegna, 50 euro, il super record della Val d'Aosta, 124 euro per abitante. E dentro c'è di tutto, cioè il presidente della regione Calabria disponeva, perché per fortuna è stato dimezzato, disponeva di 600.000 euro per le spese di rappresentanza all'anno. Voi direte tanto poco, fatto sta che è 54 volte in più rispetto al presidente dell'Emilia Romagna. Ora, se mi dite, con tutto il rispetto dei calabresi, che la Calabria è più importante economicamente dell'Emilia Romagna, non ci capiamo più. Poi ci sono le spese folli del ristorante dell'Assemblea siciliana, della Regione Sicilia. Praticamente sapete quanto costa a ogni deputato, per ogni membro dell'Assemblea siciliana vengono spesi 880 euro al mese di sole cene. Ed ecco perché il presidente della regione dell'Emilia Romagna, Matteo Richetti, ha proposto un parametro che si spendano 8 euro per cittadino per qualunque consiglio regionale, in qualunque parte d'Italia. No, lo dico perché quando si parla di casta si pensa sempre a Roma, ma non è che dalle regioni arrivino esempi sempre più edificanti. Sì, non tornerò sul caso del consigliere della regione Campania Annalisa Vassella, che è nominata amministratore delegato dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare, quindi braccio finanziario del Ministero dell'Agricoltura, quello di Romano, di Salvatore Romano, oltre a guadagnare 10.000 euro lordi al mese in quanto consigliere della regione Calabria, tra stipendio, extra, indennità, arrivava a altri 250.000 euro lordi l'anno, più i 10.000, perché hanno deciso di quadruplicarsi lo stipendio, come lei è stata nominata dentro il consiglio di amministrazione. E io pago! E io pago! Vabbè, andiamo a vedere che cosa ci ha chiesto l'Europa oggi, che cosa ha risposto l'Italia. Lo scivolone, il piccolo giallo tra Berlusconi e il Fondo Monetario Internazionale, 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, sì, la cosa più forte è forse quella della Lagarde, del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, l'ultima notizia uscita, perché insomma quando il Fondo Monetario Internazionale dice per voce del suo numero uno l'Italia ha un problema di credibilità, sta bastonando forse peggio di qualunque vertice il nostro paese. Questa mattina fonti c'era già stato il giallo sul cosa sarebbe successo all'Italia, verrà monitorata dal Fondo Monetario un po' come avvenne per l'Argentina, cioè il commissariamento ulteriore del paese, e ancora fonti europee, l'Italia andrà sotto la sorveglianza rafforzata. Barroso, a un certo momento il Presidente dell'Unione Europea, ha detto è l'Italia che ha chiesto un monitoraggio al Fondo Monetario Internazionale, non siamo noi che l'abbiamo imposto. E all'una Barroso dice ma i dubbi sulla credibilità dell'Italia non li abbiamo noi rappresentanti della Commissione Europea, ce li hanno i mercati. The point is, let's be objective. There are, in fact, doubts in the markets. Il punto è che bisogna essere oggettivi. Ci sono effettivamente dei dubbi nei mercati sull'evoluzione degli spread in Italia. È un dato oggettivo. Ed è per questo che ora l'Italia darà un'accelerazione agli impegni presi al vertice europeo. La Commissione europea è responsabile per l'attuazione degli impegni presi e infatti una missione sarà in Italia la prossima settimana. È un punto fondamentale per la credibilità degli sforzi. Oggi il governo italiano ha deciso di invitare il Fondo Monetario Internazionale per verificare trimestralmente l'applicazione degli impegni presi e la determinazione nel farlo. È importante per l'Italia dimostrare che è veramente impegnata nell'attuazione degli impegni decisi dal Presidente del Consiglio, nella lettera spedita al Presidente Van Rompuy e al sottoscritto. Oggi l'Italia ha deciso di invitare l'FMI e ha usato questa opportunità, essendo un membro del fondo. Ripeto che questa è una decisione che rafforza la credibilità degli sforzi e degli impegni. Io consiglio, così appunto il Presidente Barroso, della Commissione Europea Barroso, consiglio a un ascoltatore, mi permetto di consigliargli, che dice ma il Fondo Monetario ha perso credibilità dopo le avventure di Strauss-Kahn. Stia attento, perché qui non stiamo ragionando di Strauss-Kahn, dei suoi scandali sessuali. Qui c'è il Fondo Monetario Internazionale che ha detto che il problema dell'Italia è la credibilità, che a livello di mercato e anche a livello politico è tutto. Poi, voglio dire, no? Alessandro Merli, in collegamento con noi da Cannes. Buonasera, Alessandro. Buonasera a voi. Restiamo su quello che è successo, diciamo, fino a metà pomeriggio, poi vorrei tu giudizio però anche sul Fondo Monetario Internazionale. Van Rompuy, presidente dell'Unione Europea, l'Italia è completamente diversa dalla Grecia. We haven't put Italy in a corner, not at all. Non abbiamo messo l'Italia nell'angolo, assolutamente no. È stata l'Italia stessa a proporre di invitare il Fondo Monetario Internazionale a portare avanti il monitoraggio. Ed era già stato deciso nel contesto del Consiglio europeo il monitoraggio da parte della Commissione europea. Tutte le discussioni che abbiamo avuto con le autorità italiane sono state tenute in un clima molto sereno. Non c'era un'atmosfera da diktat, di imposizione. C'era invece un clima di cooperazione per migliorare e aumentare la credibilità del programma. La situazione italiana è completamente diversa da quella greca, assolutamente diversa. E poi le dichiarazioni di Barack Obama, che ha detto non sarà facile, ma l'Europa deve attuare il suo piano per risolvere la crisi. E per quello che riguarda l'Italia, ha detto la crisi è anche psicologica, come dimostra il caso italiano, che è un grande paese con una grande base industriale. E poi ha detto comunque l'Italia sta facendo gli sforzi e i progressi, l'ha detto anche Sarkozy, rendo omaggio agli sforzi dell'Italia. E sia Sarkozy che Barack Obama hanno detto bene il fatto che l'Italia abbia fatto ricorso e abbia chiesto l'aiuto del Fondo Monetario e della Commissione Europea. E qui partiamo con il primo giallo, Alessandro Melli. Cioè, questo aiuto l'abbiamo chiesto noi alla Commissione Europea e al Fondo Monetario o ce l'hanno imposto loro? Alessandro. Ufficialmente l'Italia ha chiesto sia alla Commissione Europea sia al Fondo Monetario di verificare l'applicazione di quello che l'Italia si è impegnata a fare con quella lettera che Berlusconi ha inviato al Consiglio Europeo della settimana scorsa. Sono circa 15 pagine, una serie di impegni, la riforma del mercato del lavoro, liberalizzazioni del mercato dei prodotti, dei servizi pubblici locali, delle professioni, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto dalla Commissione è stato deciso che sarebbe stata fatta una verifica periodica sull'attuazione di questi impegni e una missione della Commissione, ha confermato oggi Barroso, sarà in Italia già la prossima settimana. In aggiunta a questo abbiamo chiesto al Fondo Monetario di fare un'ulteriore verifica. Perché? Perché il Fondo Monetario è una fonte considerata indipendente ed autorevole, e quindi avere il loro sigillo, il loro imprimato può servire a recuperare quella credibilità che mi sembra che tutti siano d'accordo manca in questo momento all'Italia, soprattutto davanti ai mercati. Come si dice, l'Italia ha saltato o è stata spinta? È evidente che ci sono state le pressioni politiche molto forti da parte non solo dagli altri partner europei ma anche del resto del G20 perché l'Italia sottoponesse un po', chiamiamola, questa tutela, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento è se questo può essere accompagnato o meno da eventuali aiuti. Ecco, no, allora fermati un secondo, perché questa era la prima parte della giornata, cioè fino alle 14:30 questa era la posizione formalmente, diciamo. Si sono fatti avanti, l'abbiamo chiesto noi, tu dici sostanzialmente in realtà le pressioni sono state molto forti per dire all'Italia agganciati, chiedi anche la verifica, il monetario del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione Europea, perché in questo modo vai a colmare questo deficit di credibilità che tutti purtroppo vedono in noi. Poi c'è la conferenza stampa di Berlusconi, adesso ascolteremo vari passaggi della conferenza stampa di Berlusconi e di Tremonti, in cui Berlusconi dice praticamente il Fondo Monetario Internazionale ci ha offerto dei fondi che noi abbiamo rifiutato, e lì scatta il secondo giallo, perché alle 16:20 Christine Lagarde, che deve mandare gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale in Italia, dichiara non abbiamo mai offerto fondi all'Italia, il paese non ha bisogno di strumenti come le linee di credito precauzionali, e poi aggiunge il problema dell'Italia è la mancanza di credibilità, che non è un bell'inizio visto che ci devono mandare gli ispettori. Alessandro. Ma diciamo che il discorso della credibilità è stato fatto da Lagarde, siccome la domanda gliel'ho fatta io in conferenza stampa, è per quello che te lo chiedo, riferire abbastanza correttamente quello che Lagarde ha detto, cioè Lagarde ha fatto riferimento al discorso della credibilità, riferendosi proprio specificamente al discorso della richiesta di queste missioni trimestrali. Da notare una cosa: contrariamente a quando avviene molto spesso con il Fondo Monetario, con questo tipo di monitoraggio fiscale, saranno pubblicati trimestralmente i risultati di queste missioni del Fondo Monetario, quindi c'è una verifica molto precisa e soprattutto la pubblicazione di questi dati, e quindi i mercati e chiunque potrà essere in grado di verificare se l'Italia rispetta le sue promesse o no. A questo Lagarde ha aggiunto: noi non abbiamo offerto fondi all'Italia perché in questo momento ci limitiamo a questa operazione di monitoraggio che è stata chiesta dall'Italia stessa. Quindi diciamo che è un giallo facilmente risolvibile, nel senso che ci sono due spiegazioni esattamente opposte di quello che è avvenuto, diciamo, in questa, non chiamiamola trattativa, ma comunque in questo incontro fra il Fondo Monetario e l'Italia per decidere di queste missioni o di queste ispezioni. Berlusconi dice: ci hanno offerto i soldi, non li abbiamo voluti perché non ne abbiamo bisogno. La Lagarde dice: non abbiamo mai offerto i soldi all'Italia. A questo punto, come in qualsiasi, diciamo, processo, bisogna decidere se si vuol credere a Berlusconi o credere a Lagarde. Credo che sia molto semplice. Sì, io dico, non per fare il terzista o Ponzio Pilato, si poteva anche evitare, magari non si citava questa cosa, così non avevamo la risposta alla Lagarde, che ci ha detto anche che non siamo così credibili. Ultima domanda e poi passiamo al meteo, alla pubblicità. Ci sarà anche un aggiornamento su Genova e poi veniamo al fronte italiano, e quindi la conferenza stampa di Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi. Insomma, chi scrive commissariamento Italia a questo punto come l'Argentina? Esagera un po'? Beh, esagera perché l'Argentina naturalmente... Non nel paragone con l'Argentina, rispondo anche da solo, no, dico sul fronte commissariamento. Che già in questi giorni, settimane, la lettera che ci ha mandato la Banca Centrale Europea 3 settimane fa, un mese fa ormai, era stata vista come una esautorazione della sovranità nazionale. E adesso? Ma diciamo che ci sono degli impegni che l'Italia ha preso con il resto d'Europa, anche a fronte del fatto che intende rimanere nell'euro e non intende ovviamente fare default sul suo debito. Questi impegni sono stati presi dal governo italiano, più o meno volontariamente. Comunque è una lettera sottoscritta dal primo ministro italiano, quindi è un atto diciamo del nostro governo. Dopodiché ci si è pensato di, più o meno d'accordo, di sottoporsi a questa verifica, e questa verifica la possiamo chiamare, diciamo, può essere un problema semantico, la possiamo chiamare commissariamento o no. Di fatto l'Italia dovrà dimostrare che rispetta i suoi impegni, che poi teoricamente dovrebbe essere quello che chiunque fa delle promesse dovrebbe rispettare quando appunto fa queste promesse. Cioè, una volta che fai le promesse, sì, comunque tu hai detto forse la cosa più giusta, nel senso che la si chiami commissariamento, che la si chiami osservatori esterni, caschi blu dell'ONU, ispettore del Fondo Monetario, di questo stiamo parlando. Cioè, noi verremo monitorati da agenti, da osservatori esterni, come fa il Fondo Monetario quando teme sulla capacità che ha uno Stato di reggere, no? Cioè, poi chiamarlo commissariamento diventa poi un esercizio quasi semantico. Diciamo che abbiamo fatto le promesse e siamo chiamati a rispettarle, soprattutto in una fase in cui i mercati evidentemente hanno l'Italia nel mirino. Credo che non ci possiamo permettere di non rispettarle. C'è il fatto che c'è una missione periodica della Commissione e del Fondo Monetario che verifica che effettivamente rispettiamo queste promesse, e forse ci può solo aiutare. Sì, a recuperare credibilità sicuramente. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Cannes. Grazie a voi. E adesso appunto ascolteremo anche le dichiarazioni di Silvio Berlusconi e del ministro Tremonti. Ce n'è una che sta facendo molto discutere la rete, anche i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, agli sms, è la frase sul il paese non è vero che è in crisi, i ristoranti sono sempre pieni. Io ve la faccio ascoltare, poi ognuno faccia la valutazione che vuole. Devo dire per onestà intellettuale, che alcune volte, anzi più di una volta, riceviamo anche noi messaggi di ascoltatori che dicono: ma dov'è sta crisi? Ma i ristoranti sono pieni, c'è coda in autostrada, c'è coda agli autogrill. Io ho fatto notare semplicemente che quando un paese va in crisi non è che crolli, non è che si fermi tutto, però insomma, ognuno è liberissimo, il programma è fatto apposta per questo, per valutare, dare il suo giudizio sulla valutazione che ha il Presidente del Consiglio del suo paese. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iper prenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate, andando a vivere in Italia, che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra. Minuti, vedo un'infinità di messaggi sul fatto che il Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia è un paese che non è in crisi. Allora, anche qui, attenzione, immaginiamo, visto che è un esempio che spesso il Presidente del Consiglio fa, un'azienda, il paese come un'azienda. Allora, è chiaro che un'azienda può avere un calo dell'utile, un calo del fatturato, un calo degli ordinativi senza per forza chiudere, e cioè esiste, va ancora avanti, non è che si blocca tutto. A quel punto è fallita, e l'Italia è tutto tranne che fallita. Ha ragione Berlusconi nel dire che è un paese ad alta vocazione industriale, lo ripetiamo noi spessissimo, è la seconda paese per esportazioni a livello europeo, resta un grandissimo paese per quello che riguarda le banche, il risparmio privato è altissimo, tutto vero. Da lì a dire però che la crisi non c'è è un altro discorso. Un conto è dire che un'azienda è sana ma ha un periodo di difficoltà ed è in crisi sui mercati, un conto è dire che l'azienda è sana e non c'è crisi. Magari ve la faccio risentire. L'altra frase del Presidente del Consiglio, che al di là della smentita che ha ricevuto dal Fondo Monetario Internazionale, Berlusconi ha detto abbiamo rifiutato gli aiuti del Fondo Monetario, la Christine Lagarde, che è il direttore generale, ha risposto non li abbiamo mai inviati, non abbiamo mai offerti questi aiuti. C'è una frase sulle azioni. Allora, intanto un aggiornamento. La borsa ha chiuso con un meno 2,66%, quindi non proprio sui minimi. Il nostro spread però, e quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto costa la Germania, ha toccato un nuovo record storico, più alto anche di quello di martedì, e cioè 462 punti, vuol dire che il BTP rende oltre il 6,3%, a questo punto si va verso il 6,4% il BTP a 10 anni, che è quello che usiamo come riferimento per lo spread. Berlusconi ha parlato anche sui titoli e ha detto: beh, attenzione, l'attacco ai titoli di Stato e ai titoli di borsa è una moda passeggera. Non si tratta di monitoraggio ma di certificazione, non è stata imposta ma è stata richiesta. Per quanto riguarda il fondo salva stati, noi pensiamo di non averne bisogno. Noi riteniamo davvero che sia un po', come dire, una moda passeggera quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano. Sì, adesso vedo ancora molti messaggi, i dati della Caritas, le file della Caritas, lo so, adesso. Ripeto, un'analisi articolata è un'analisi che tiene conto di due aspetti: il fatto che non siamo diventati improvvisamente poveri, ma che non stiamo bene come 4 anni fa. Ecco, forse l'errore dell'analisi di Berlusconi è stato buttarla un po' così, in un discorso facile, un po' da bar, no? I ristoranti sono pieni, sì, dipende quali. E pieni di chi? Di gente che paga le tasse, di gente che lavora, che ha difficoltà a arrivare a fine mese, o di gente che dichiara 13.000 euro come i ristoratori all'anno lordi, eh? Vabbè, Gerardo Pelosi, ci sei da Cana? Anche Gerardo Pelosi ha seguito la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi di Giulio Tremonti. Buonasera Gerardo. Buonasera. Abbiamo più di un tema per te. Prima però Daniele Biacchessi, che ci sta aggiornando dalle 16 su quello che sta capitando purtroppo a Genova. Vi ricordo che oggi Focus Economia termina alle 18 perché inizierà lo speciale alle 18.05. Daniele. A Genova è un muro di acqua veloce, spaventoso, impetuoso, terribile, ha travolto case, negozi, scuole, macchine, ha allagato in pochi secondi le strade, le piazze, ha invaso i sottopassaggi. Sono al momento 7 i morti, in 5 hanno perso la vita nell'androne dello stesso palazzo in via Fereggiano 2. Tra le vittime della piena del fiume Bisagno ci sono 3 bambini, il più piccolo di 1 anno, il più grande di 8 anni, le altre sono 4 donne. La provincia di Genova è in ginocchio, il capoluogo colpito al cuore. Per ora è rimasta bloccata la stazione di Brignole. I viaggiatori che si trovavano nella stazione sono stati trasferiti con un treno speciale a Genova Principe, poi per proseguire il viaggio. Vi ricordo che oltre al fiume Bisagno sono esondati oggi in pochissimi minuti anche tutti i suoi affluenti, il Chiaravagna, il Fereggiano, ci sono problemi praticamente in tutta la provincia di Genova e lo Scrivia è pericolosamente gonfio. Dice il sindaco Marta Vincenzi che è una tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma e che soprattutto il fiume Fereggiano era un fiume in sicurezza. Staremo a vedere perché ci sono già molte polemiche, alcune le abbiamo già in qualche modo captate. La protezione civile ha diramato dei bollettini e non sono ben auguranti. Si parla di piogge continue per 2 giorni. Direi che facciamo il punto alle 18 per... Sì, è impressionante, devo dire, quello che tu raccontavi alle 16.45, cioè le mamme di quella scuola elementare o scuola media, non mi ricordo. Scuola elementare che sono andate a prendere i bambini pochi minuti prima che la scuola venisse sommersa dall'acqua. Si sono precipitati a prendere i bambini. Sono centinaia di testimonianze che raccontano di questa... Del resto, diciamo, il muro di acqua è un muro enorme e stiamo parlando di alcuni metri di acqua ed è arrivato e ha allagato tutto. Vorrei ricordarvi che tutto questo è avvenuto 41 anni dopo una storia molto, molto simile. Sì, allora ci furono 44 morti, che erano veramente tanti, e accadde, diciamo, tra il 7 e l'8 di ottobre. Anche lì il Bisagno era esondato. Grazie Daniele Biacchessi, noi torniamo sui temi europei. Sì, adesso fateci respirare con gli sms, lo so, c'è anche chi scrive che gli asili statali comunali bisogna portare la carta igienica, la carta anche per far scrivere i bambini, avete ragione, ripeto, insomma, Gerardo Pelosi è stato uno scivolone, è stato più uno scivolone quello di Berlusconi sul paese che la crisi non ce l'ha perché i ristoranti sono pieni, o quando ha detto il Fondo Monetario ci ha offerto soldi e poi dopo 5 minuti, ma noi li abbiamo rifiutati, dopo 5 minuti Christine Lagarde, il numero 1, ha detto non vi abbiamo mai offerto soldi, il problema dell'Italia è la credibilità. È una bella lotta. Noi eravamo grazie per la mano che mi dai. Del cinema in una saletta dove di solito vengono proiettati i film del festival Cannes, ma quello che ci ha presentato Berlusconi è davvero un altro film rispetto alla realtà che molti italiani stanno vivendo, molte imprese stanno vivendo. Un film quasi un Truman Show dove non c'è spazio per allarmismo, preoccupazioni, dove tutto fila liscio in una visione rosea, edulcorata e rassicurante della realtà. E in questo film il Fondo Monetario non è quell'istituzione finanziaria che tutti conosciamo, ma quasi una Deloitte, una Pricewaterhouse, una società di certificazione che in maniera quasi anonima non deve monitorare, ma prendere solo atto dei progressi delle riforme di un paese. Gli attacchi ai titoli italiani sono una moda passeggera. E la crisi è un'invenzione del giornale perché i ristoranti sono pieni, come tu hai detto, e chi si è impoverito lo è soltanto per effetto di un cambio irragionevole, così ha detto Berlusconi, tra la lira e l'euro, deciso ai tempi dei governi di centrosinistra. Un governo che ha una maggioranza solida in Parlamento, quando tutti sappiamo che sta perdendo pezzi giorno dopo giorno, che approverà in 15 giorni tutte le riforme chieste dall'Europa, dove l'Italia appunto rifiuta gli aiuti del Fondo Monetario, ma il direttore, il managing director del Fondo Monetario, Christine Lagarde, ha confermato che questi aiuti non sono stati mai offerti, mai proposti in questa lunga notte di negoziato, E insomma, in cui poi non c'è neppure un deficit di credibilità del governo, perché poi la credibilità è questa parola chiave evocata ieri dallo stesso Sarkozy nella conferenza stampa della prima giornata, ma semmai un problema di pregiudizi antichi nei confronti degli italiani. Les italiennes sont toujours les italiennes. Adesso tu dici, è un Berlusconi che ha raccontato un film diverso da quello che noi raccontiamo ogni giorno, anche su questa cosa, secondo me è un boomerang, però insomma il mio giudizio personale è che la crisi non c'è. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è? Ti ho trovato anche la base musicale per il film. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Gerardo Pelosi, al di là delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che stanno facendo discutere, quindi la crisi che non c'è, l'attacco al debito italiano è una moda passeggera, nel giorno in cui tocchiamo un nuovo record sullo spread a 462 punti, forse un po' improvvida, lo dico anche a chi scrive: ah, siete critici sul governo. Valutiamo quello che viene detto rispetto ai fatti che leggiamo e oggettivamente vediamo come numeri. Tutto qua, il rapporto con Giulio Tremonti, perché Tremonti in realtà ha detto dal G20 è arrivata all'Italia una richiesta di impegno molto intenso, senza precedenti per intensità e tempistica, come dire, ci hanno chiesto una cosa eccezionale. Gerardo. Sì, senza dubbio è così. Il rapporto tra i due resta problematico, dialettico. Sicuramente i lunghi silenzi di Tremonti nel corso della conferenza stampa sono la prova, la testimonianza tangibile di questo rapporto che è in crisi, ma nel quale nessuno dei due può fare a meno dell'altro. Soltanto mercoledì scorso il Ministro dell'Economia era entrato nel Consiglio dei Ministri in corso dicendo ai suoi colleghi: voi vi state illudendo di approvare un emendamento che risolverà tutti i problemi, ma qui non capite forse che domani il Fondo Monetario ci chiederà di metterci sotto tutela, chiederà un monitoraggio, che è quello che è successo, è quello che è avvenuto. Vediamo se questo almeno avrà a giudicare dallo spread, non sembra, ma avrà una ripercussione positiva sullo spread italiano, sui CDS e anche sulla borsa, cioè se un paese messo sotto tutela, che lo dico, non è una cosa bella, perché insomma la sovranità è una cosa a cui tutti teniamo, messo sotto tutela avrà meno il vantaggio di essere giudicato un po' più credibile, meno a rischio sul fronte internazionale. Un'ultima domanda, un minuto di tempo, Gerardo, ma secondo te la linea Berlusconi è un abile politico, lo è stato sicuramente, la linea di andare a Bruxelles, a Cannes, e dire: guardate che il nostro è un paese ricco, l'attacco sarà passeggero, nessuno ci ha mai commissariato, hanno solo chiesto di certificare, è una linea che punta a cosa? Cioè a rassicurare quel cuore antico, quel nocciolo duro degli irriducibili, chi è ancora in una fase nel suo partito, voglio dire, è indeciso se mollarlo o meno. Non credo che siano stati argomenti che lui onestamente può avere contrapposto alle preoccupazioni degli altri partner europei. Però volevo soltanto aggiungere una cosa: noi parliamo del monitoraggio stretto del Fondo Monetario, ma forse un monitoraggio ancora più stretto sarà quello che farà l'Europa, la Commissione, il Consiglio europeo. Forse ci sarà, come dire, un certo di traffico da regolare in via 20 settembre, gli ispettori che arriveranno, e forse a un certo punto bisognerà anche coordinare questi arrivi. Quelli del Fondo Monetario sono previsti già entro la fine del mese, quindi arriveranno, dovranno vedere le carte e lo stesso. Cioè non si fidano delle carte del Ministero dell'Economia, le vogliono vedere, le guarderanno cosa facciamo, il doppio controllo. Vogliono vedere i fatti, come i mercati. Il doppio controllo sia del Fondo Monetario Internazionale che della Commissione Europea. Va bene, la borsa intanto, grazie a Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Cannes. la borsa meno 2,66%, peggio ha fatto leggermente Francoforte meno 2,70%, Parigi meno 2,20%, bene la popolare dell'Emilia Romagna oggi più 3%, e Buzzi Unice in più 1,44%, di nuovo invece in netto calo i bancari, Intesa San Paolo meno 4,81% a 1,12 euro, Popolare di Milano meno 6% a 36 centesimi, Unicredit meno 6,55% a 77 centesimi di euro, e Ansaldo STS meno 7,36%, Fiat meno 5,50, Finmeccanica meno 5,20, e ancora Mediobanca meno 4,40, Fiat Industria meno 4,40, Fondiaria meno 4,3%, Lottomatica meno 3,5%, come il Banco Popolare e Pirelli. È veramente tutto per questa puntata, per questa settimana di Focus Economia. Vi lascio al nostro speciale dopo il GR dedicato al disastro che sta travolgendo Genova. Noi ci risentiamo comunque lunedì, spread o non spread, dalle 17 in poi. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Focus Economia.